essendo con te, gocce di sangue tra le tue cosce, underground sasse di ne, eroine, fragili tremore, il tuo corpo un sudore, il tuo amore è mio, il tuo alito oblio, profumo mio Dio, arrampicati, avvinghiati, il nostro karma diventa etereo. Fuoco di fango, benza di diamanti di te, principessa nelle tenebre. Esorcismo di bene, di amarti, seguirti, dentro corridoi, per mano fuori accompagnarti. Origami del sacro alla luce di due sposi amanti. Fuoco nel fuoco, noi vivi e nudi dentro sacrifici nubili, guai un sorso del mio, diabolica dentro onirica, sai quanto diamanti avrai, che il denaro Twilight non può comprarti, anime immortali incatenati a me, Venere tra nuvole nere, piovono candele di eroi morti in sere tra noi. Se vuoi, tra ci prendiamo insulti se vuoi, ma amami dentro danze di memoria dei nostri eroi. Oi, I am you, we are blame, together we are burning in flame, to sex to burn the pain, speed life to much stress again, blood in pain. Cicatrici di tattoo, indelebile pain, cicatrici fragili in luce contro tenerezze, in luce contro tenebre, noi che portiamo croce, mettiamoci ali, mettiamoci che corriamo, fatti, strafatti, infatti, infatti, infatti, esperienza tu sei, cocaine, Van Gogh di sorrisi, il chiaro di un campo di grano, corvi urlano, i nostri corpi nuovi in vano.